Europa 24. E un saluto da Anna Migliorati. Sono giorni di tensione tra Bruxelles e diversi paesi dell'Unione, dalla Polonia all'Italia. Scoppia anche la tensione tra Consiglio europeo e Commissione. La democrazia e la libertà dei media in Polonia non sono rischio. Varsavia resta filo europea, dice il presidente polacco Duda, pochi giorni dopo che la Commissione ha avviato la procedura di verifica sulle nuove norme polacche. Duda che questa mattina è a Bruxelles, dove ha incontrato il presidente del Consiglio europeo Tusk. Vogliamo un dialogo con l'Europa basato sui fatti reali, ha detto il presidente polacco. In Polonia la situazione è stata dipinta male dai media, ma ad accendere, dicevamo, una nuova polemica tutta interna a Bruxelles è il presidente del Consiglio europeo Tusk, ex premier polacco, che a sorpresa ha attaccato l'esecutivo di Juncker. Credo che la Commissione agisca in buona fede, ha detto, ma aggiunto, credo che questa verifica sulla Polonia si potesse fare in altro modo. Allora andiamo a Bruxelles da Beda Romano. Sì, la presa di posizione di Tusk oggi è stata abbastanza sorprendente, perché non ci si aspettava che l'attuale presidente del Consiglio europeo ed ex primo ministro liberale polacco, quindi partito all'opposizione oggi rispetto all'attuale governo, prendesse posizione così freddamente nei confronti della posizione della Commissione. L'impressione evidentemente è che la scelta della Commissione non piace a tutti, vi sono certamente alcuni paesi che lo hanno fatto notare, non piace l'idea che la Commissione possa in un modo o nell'altro verificare con mano le politiche nazionali in un frangente come questo. Vi è anche il timore che così facendo la Commissione non riuscirà a influenzare direttamente la politica polacca, e rischia piuttosto di complicare il rapporto tra Varsavia e Bruxelles, creando nuove tensioni nazionali in altri paesi, soprattutto nell'est Europa. E grazie a Beda Romano. A parlare per l'Italia invece il ministro degli esteri Gentiloni, che sta partecipando al Consiglio Affari Esteri dopo le dure prese di posizione tra venerdì e sabato, prova a spegnere le polemiche che però anche tra Roma e Bruxelles restano fortissime. Noi non partecipiamo a polemiche inutili, teniamo naturalmente alle nostre posizioni, ma lo facciamo come lo fa ciascun paese, discutendo sui diversi argomenti. Penso che la situazione in Europa sia molto delicata, sia sul fronte economico che sul fronte migratorio, e questa situazione delicata dovrebbe essere affrontata, ripeto, senza accenti polemici come quelli che ho sentito da Bruxelles nei giorni scorsi, che francamente sono, lo ripeto, inutili. E a proposito del fronte migratorio, se l'Austria e la Germania decideranno di limitare l'accoglienza dei migranti, anche la Slovenia è pronta ad adottare misure analoghe, inclusa la sospensione di Schengen, dunque al confine sloveno potrebbe essere reintrodotto il controllo di documenti, dice il governo di Lubiana. Ma dicevamo, in corso il Consiglio Affari Esteri, i primi punti in discussione Siria e Iran. We had even yesterday terrible news from inside Syria, and I believe this is. Le notizie arrivate dalla Siria rafforzano l'idea che il tema deve essere nell'agenda europea per mettere fine alla catastrofe umanitaria e dare inizio ad un processo diplomatico. Così le sentite le parole dell'alto rappresentante per la politica estera europea, Federica Mogherini. Lavori su questo fronte ancora in corso, noi invece per ora ci fermiamo qui. Vi ricordo però che da oggi su Radio 24 prende il via un nuovo appuntamento con l'Europa. Questa sera effetto notte Youzone, incontro con i parlamentari europei. Appuntamento questa sera per la prima puntata, nuovo appuntamento che poi troverete anche sul nostro sito, vi ricordo www.radio24.it. Un saluto da Anna Migliorati. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.